24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci qui alle 7:21 minuti, cari ascoltatori, in diretta fino alle 9, in diretta anche su Facebook, dove trovate la nostra pagina 24 mattino. Di cosa parliamo oggi nel nostro sondaggio? Parliamo di fecondazione assistita. Ebbene sì, perché il Vaticano ha detto, ha ribadito, per la verità, che la fecondazione assistita è peccato. Il concepimento deve avvenire in modo naturale tra i due coniugi. Che ne pensate di questa posizione della Chiesa? Siate credenti o meno? Ne parliamo alle 8:30, voi votate intanto su radio24.it ed ora da cosa iniziamo? Dai giornali in edicola. In primo piano. Martedì 22 marzo, anche oggi e chissà per quanti giorni, la situazione in Libia prende le prime pagine di tutti i quotidiani. La Libia divide gli alleati, così apre il Sole 24 Ore. Il tema che trovate più espresso è la spaccatura all'interno dell'Europa, soprattutto tra Italia e Francia, sul comando delle operazioni. Il Corriere, la guerra libica divide Italia e Francia. Per Repubblica, Italia-Francia, scontro sulla NATO. La Stampa, bombe su Tripoli, strappo dell'Italia. Libero la mette così: a loro il petrolio, a noi i clandestini. Loro sono inglesi e francesi e noi siamo noi. Per il giornale addirittura l'Italia bombarda la Francia. E insomma, vedete che questi sono i titoli. L'Unità si chiede chi guida, mentre il Manifesto scrive, mette una foto in prima pagina con il titolo «Nato male». Ci sono sullo sfondo i resti di un tank dell'esercito libico colpito, anche il Messaggero, Libia, Berlusconi, comando alla NATO. Insomma, il tema è questo: chi comanda e chi deve comandare le operazioni? L'Italia vuole che sia la NATO, ma lo vedremo dopo la pubblicità. L'ampia pagina dedicata alla questione della Libia. Io voglio partire da una lettera che c'è in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Il titolo d'apertura del Fatto non l'ho letto, ma anche questo è sulla Libia: l'armata rotta. Una lettera di Valentina Rinaldi. La lettera è questa: mio figlio cieco senza giochi, colpa del Gelmini. Caro ministro Gelmini, ieri mio figlio, che ha 10 anni, mi ha chiesto di essere lasciato al portone e poter salire al secondo piano per raggiungere la casa della nonna da solo. Cosa c'è di strano in questo? Nulla. Ma di particolare c'è che mio figlio è cieco dalla nascita. Ed è inutile dire quale felicità abbia provato io nel vederlo in assoluto silenzio salire quelle scale, contando i gradini e mantenendo altissimo il livello della concentrazione. Ho sempre pensato che la sua diversa normalità non fosse un limite, ma la capacità di fare le cose in altro modo. Ho sempre creduto che il confronto con gli altri bambini fosse per entrambi fonte di arricchimento e di conoscenza. Oggi scopro che gli studenti diversamente abili non possono correre, giocare e divertirsi ai giochi della gioventù come tutti gli altri, ma devono restare a guardare, fare da spettatore di una vita normale che è degli altri e non la loro. Non era questo il mondo che io ho immaginato per lui, non era questo il futuro che speravo per lui. Le assicuro che pensare al domani di questi bambini non è fonte di tranquillità. Le auguro di divertirsi ai giochi della gioventù, ma le auguro anche che tutte le persone che rifiutano la discriminazione disertino questa manifestazione, lasciandola sola a guardare nel vuoto, perché è questo il vuoto che lei ha lasciato dentro di me. La lettera è firmata Valentina Rinaldi. La vicenda, poi approfondita all'interno del Fatto Quotidiano, è questo: per i giochi della gioventù, insomma, problemi per tutti i ragazzi disabili, giochi negati ai bambini. In realtà la polemica, già nei giorni scorsi il ministro dell'istruzione Gelmini era intervenuta dicendo e respingendo al mittente le accuse e dicendo che l'organizzazione dei giochi è affidata al CONI fin dal 2009, dunque chi attacca il ministero lo fa come strumentalizzazione di una lotta politica. Il fatto c'è, e cioè che mancano i soldi per l'assistenza alle gare sportive. Per esempio Simona Zucchetta, sentita dal Fatto, di Equality Italia, organizzazione per la difesa dei diritti civili, dice: è una cosa semplicissima, ci sono pochi iscritti per organizzare il sostegno necessario agli atleti disabili. Se un ragazzo cieco deve affrontare per esempio una gara, occorrono particolari accorgimenti, servono persone al lavoro, più ore di servizio, ma al CONI arrivano poche richieste per quel tipo di competizione e dunque non ci sono abbastanza persone per assistere queste persone. Insomma, io ho voluto iniziare così, mi sembra una denuncia sicuramente da fare una denuncia importante. La trovate sul Fatto Quotidiano. La seconda segnalazione a pagina 17 del Messaggero. Assenteismo a Roma. Ogni tanto vengono pizzicati al mercato anziché in ufficio, incastrati 50 ministeriali. Filmati i loro movimenti nella sede distaccata dei trasporti all'EUR. 50 persone inchiodate, pare, dalle telecamere, ma adesso ci saranno tutte le difese, tutti i modi per cercare di difenderli. No, non facevano così. In realtà pare dalle telecamere che saltassero i tornelli con vero impeto, salti incredibili, giovanili, per andare a fare shopping invece che stare al Ministero dei Trasporti a lavorare. Smascherare gli assenteisti, scrive il Messaggero, è stato un lavoro che per mesi ha impegnato investigatori che hanno studiato fotogramma per fotogramma le presunte fughe dei dipendenti. Per carità, scriviamo presunte, sennò poi ci querelano. E il salto del tornello, appunto, era una delle tecniche più usate, oppure si usava il badge di un collega. Sta di fatto che sono stati pizzicati. Verranno licenziati? Vi lascio con questa retorica domanda alla pubblicità. In primo piano. Apriamo dunque l'ampia pagina dedicata alla Libia, poi Oscar Giannino ne parlerà alle 9. Io voglio ricordare che alle 8:20 invece avrò come ospite nell'intervista Lamberto Dini, ex presidente del Consiglio, uno che Gheddafi lo conosce, attualmente è presidente della Commissione Esteri al Senato. Allora, intanto per quel che riguarda l'aspetto militare dei gialli, perché non ci sono molte immagini anche per la riservatezza delle operazioni, il giallo è questo oggi sui giornali: Khamis, uno dei figli di Gheddafi, è morto oppure no? L'inviato di Repubblica Vincenzo Nigro scrive: bisognerà capire, bisogna aspettare entro oggi, se entro oggi o entro domani la televisione libica non ce lo avrà mostrato impegnato sopra uno dei suoi carri armati, come avviene spesso, è un generale, comanda la 32esima brigata, beh, già vorrebbe dire che effettivamente qualche problema c'è. Però c'è il giallo sul fatto che Khamis, uno dei figli di Gheddafi, sia stato ucciso oppure no. Ma soprattutto quello che si profila sui giornali è il vero e proprio scontro, come titolo al Sole 24 Ore, pagina 3, scontro Italia-Francia sulla NATO. Il tema è sul tavolo: chi deve comandare l'operazione di questa operazione militare che è iniziata sotto il comando francese, inglese e americano di fatto, ma che ora per l'Italia, e ieri scrive Adriana Cerretelli, il ministro degli esteri Franco Frattini ha usato parole insolitamente dure, ora il coordinamento deve passare alla NATO per la sua esperienza, capacità, struttura di comando. Sta di fatto che questa è una fonte di scontro non indifferente tra i vari paesi, tanto che il Corriere della Sera intervista a pagina 2 Anthony Zinni, è un generale che è stato uno dei protagonisti della guerra in Iraq, e Ennio Caretto lo intervista per il Corriere, dice: c'è confusione in campo militare, in campo diplomatico. Obama, Sarkozy e Cameron si contraddicono, all'ONU è scontro, non temo che la coalizione si sfaldi a breve. Ma a medio termine è un'altra questione, perché saremo sottoposti a pressioni da parte russa e cinese. Le no-fly zone logorano anche chi le fa. Insomma, si profila uno scontro non indifferente alla luce anche delle tante critiche che ci sono nella accelerazione che c'è stata in questa operazione militare, che effettivamente nel giro di un weekend è partita un po' così, tanto che sentite cosa Repubblica con Carmelo Lo Papa attribuisce a Berlusconi. Questa guerra non l'avremmo mai dichiarata, caro Umberto. Questo è Berlusconi che avrebbe parlato con Bossi ieri nel viaggio aereo da Milano a Roma. Siamo stati trascinati dalla smania di protagonismo di francesi e degli inglesi. Questo sarebbe il punto di partenza per una ricomposizione all'interno del governo, cioè sapete che la Lega è abbastanza critica, molto critica per questa operazione militare, e Berlusconi avrebbe promesso: ora batterò il pugno in Europa per cercare di trovare altre strade. Intanto la prima strada potrebbe essere quella di mandare tutto sotto il controllo della NATO, ma secondo Repubblica c'è anche un tentativo di mediazione russa affidata al presidente Dmitry Medvedev, che l'Italia starebbe cercando di appoggiare. Tiene i contatti col presidente russo per favorire una mediazione e trovare una soluzione diplomatica, fermare dunque i bombardamenti e trovare una soluzione diplomatica. Della incertezza, insomma, che Riccardo Barenghi, la Iena, in maniera sempre molto graffiante sulla stampa, pagina 3, riassume così: sorprese, Berlusconi ha bombardato la Libia a sua insaputa. Bisogna andare sul Corriere, sul Giornale, per vedere alcuni dei retroscena, effettivamente capire che all'interno del governo la compagine, insomma, di governo è abbastanza in fibrillazione su questo tema. Intanto una frase che è stata attribuita a Berlusconi, la leggiamo sul Corriere ma anche su Il Giornale, e tra l'altro è proprio Il Giornale che dice una frase che è destinata ad alzare un polverone. Ieri Berlusconi si è presentato a Torino per la campagna elettorale a sostegno del candidato del centrodestra e nella cena ha detto così: sono addolorato per Gheddafi, mi dispiace, quello che accade in Libia mi colpisce personalmente. Stefano Filippi sul Giornale, sotto il titolo Il Premier sul Rais, per Gheddafi sono addolorato, dice una frase destinata a sollevare un polverone. Anche Paola Di Caro sul Corriere della Sera, pagina 8, la riporta: a una cena elettorale a Torino Berlusconi si dice addolorato per Gheddafi, quello che accade in Libia mi colpisce personalmente. Insomma, la frase virgolettata è attribuita a Berlusconi è identica. Mentre sempre sul Corriere Francesco Verderami a pagina 9 racconta quelle che sono le retroscena anche del Consiglio dei Ministri, un Consiglio dei Ministri, e anche di questo viaggio che c'è stato Milano-Roma tra Berlusconi e Bossi sullo stesso aereo, con anche altri ministri, Maroni e Calderoli della Lega, la ministra Brambilla del PDL. Ecco quello che Berlusconi avrebbe detto: non sarà facile rovesciare così Gheddafi, a meno che non si proceda con un intervento di terra. Ma c'è qualcuno che ha intenzione di farlo, sapendo quale potrebbe essere la reazione del mondo arabo? E poi il Consiglio dei Ministri, nel quale Berlusconi, che scrive Verderami, vuole riprendersi la scena, si è sfogato sulle fughe in avanti dei ministri, avrebbe detto a Bossi: in questi casi verrebbe voglia di mollare tutto. E ancora Berlusconi, per esempio, il tema è questo, sollevato dal ministro Alfano in Consiglio dei Ministri: chi ha deciso di chiudere l'aeroporto di Trapani ai voli civili? L'ENAC, è stata la risposta di La Russa. No, i militari, hanno riferito i vertici dell'ENAC. Comunque sia, ha aggiunto Berlusconi, come è possibile che io non ne sia stato informato? Insomma, poi il ministro Calderoli che dice: abbiamo offerto le nostre basi militari senza trattare una contropartita, senza chiedere in cambio nulla sul fronte dell'immigrazione. Il tema è quindi di un po' di tensione, un po' di ministri, ognuno che è andato un po' per la propria strada. Tanto che il Corriere della Sera, ma qui siamo sempre in retroscena, però sono le frasi che vengono attribuite, sono anche quelle curiose, sono anche quelle a dimostrazione, insomma, di una situazione un po' confusa e caotica. La frase attribuita a Umberto Bossi dal Corriere della Sera, pagina 10, nell'articolo di Marco Cremonesi, sapete che Bossi è uno che ogni tanto ha il linguaggio così: sono tutti missili che ci torneranno nel culo. Questo Umberto Bossi col Corriere, che dice: non sarà raffinata, ma la frase di Umberto Bossi esprime, riassume perfettamente la grandissima apprensione del Carroccio per questa operazione militare. Sta di fatto che a Lampedusa ormai l'isola si trova in una situazione per cui ci sono 5.400 clandestini, un'isola che si sta, con i propri abitanti, giustamente anche, io dico, lamentando, perché insomma è il primo porto di approdo da parte di tutte le barche, però è chiaro che la situazione non può reggere a lungo. Il Corriere della Sera annuncia la San Marco per liberare Lampedusa, ci sarà la nave San Marco della Marina Militare in acque di Lampedusa, che imbarcherà un numero significante di immigrati per poi, immagino, smistarla, insomma, nei vari centri italiani. Una situazione che è caotica anche per quel che riguarda sul fronte del cosiddetto pacifismo. Giustamente ci si chiede: ma le bandiere della pace dove sono? Le bandiere della pace sono sparite, quelle che quando c'era la guerra in Iraq, in Afghanistan, sventolavano dai vari balconi delle città italiane. Beh, pare che i pacifisti si siano dati un primo appuntamento, finalmente, verrebbe da dire, per chi crede in queste manifestazioni. Sabato, manifestazione per l'acqua pubblica e contro il nucleare a Roma, è già organizzata, sarà anche una mobilitazione per la pace, dice e scrive Repubblica. Né guerra né tiranno, si muovono i pacifisti, però c'è effettivamente un po' di incertezza anche sotto questo punto di vista. Per esempio Rossana Rossanda, storica fondatrice del Manifesto, in un'intervista dice no, le bombe in questo caso sono giuste, ma non si capisce, le bombe in alcuni casi sono giuste, in altri casi no. In ogni caso, Giannino, Oscar Giannino, ne parlerà alle 9. Noi avremo il presidente Lamberto Dini, ospite alle 8:20. Parleremo dunque ancora di Libia più approfonditamente più avanti. Poi ovviamente tutti gli aggiornamenti nei giornali radio. Vogliamo andare ad altre cose che sono sui giornali? Beh, intanto ieri il Corriere dà ampio risalto, due pagine addirittura, il fatto che Berlusconi è andato a Torino, ci sono stati degli scontri, antagonisti contro il Premier, due poliziotti feriti a Torino, in 500 manifestano con slogan e lanci di uova e bottiglia, con le urla mafioso, e Berlusconi che dice non cederò mai a chi mi urla mafioso. Poi tra l'altro un annuncio che interessa anche tutta l'Italia, ma anche noi di Radio 24 che stiamo seguendo questa vicenda in maniera particolare, l'annuncio da parte di Berlusconi: ridurrò i tagli alla cultura. Il taglio del 60% ai fondi è stata una misura che noi non volevamo e dovremo porvi rimedio. Insomma, anche questo è un taglio a sua insaputa. Entro 15 giorni abbiamo in programma una sessione particolare con l'esecutivo e col ministro Tremonti per cercare di ridurre il taglio al FUS e consentire a teatri come la Scala di Milano, il Petruzzelli di Bari, il Regio di Torino di continuare in questa attività meritoria di grandissimo pregio per il paese. Vedremo. Berlusconi l'ha annunciato appunto a Torino. Infatti c'è anche il Regio di Torino in una manifestazione di campagna elettorale. Vedremo comunque, insomma, l'annuncio è questo: ridurrò i tagli alla cultura, che ci sono stati i tagli al Fondo Unico sullo Spettacolo. A proposito di manifestazioni, sia il Corriere che Repubblica mettono in ampio risalto quello che è successo ieri al processo Mills, nel quale è imputato il Premier, che però non si è presentato. E al processo Mills arrivano i supporter del Cavaliere. Questo è il titolo sul Corriere, mentre su Repubblica: processo Mills, i fan del Premier in aula. È un'aggressione, non è una giustizia. Udienza disturbata, intervengono addirittura i carabinieri a guidare la CLAC e il sottosegretario Mantovani, sottosegretario del alle infrastrutture, credo, ai lavori pubblici. È del PDL, dice: i PM indaghino su Iara, che è meglio, o sua vetrana, che è meglio. E c'è stata questa clac portata appunto in tribunale. Per quel che riguarda sempre la vicenda giudiziaria, un'altra vicenda giudiziaria che coinvolge il Presidente del Consiglio, invece oggi il Fatto Quotidiano a pagina 8 pubblica, ma non è il primo quotidiano, l'ha già fatto l'Unità, le foto che secondo il Fatto, ecco, dimostrerebbero altro che cene eleganti, baci tra donne e manette per Berlusconi. Sono foto che già girano sul web, sono state pubblicate appunto dall'Unità, oggi dal Fatto, le foto tratte dal cellulare di Barbara Guerra, c'è un bacio saffico, un bacio tra due belle ragazze. Poi c'è un'immagine della Guerra, pare sia lei, non lo so, comunque agghindata con tutta da poliziotto, con la divisa con scritto police e un bel paio di manette in primo piano. Poi un altro bacio tra due ragazze, l'elemora che scherza con un amico. Insomma, queste sono alcune foto che vengono messe in ampio risalto, un'intera pagina 8, secondo il Fatto, a dimostrare che le cene eleganti, tra virgolette, erano queste. A pagina 8, per quel che riguarda la giustizia, una cosa molto, ma molto, ma molto e ancora molto più seria, è partita ieri la mediazione civile, un tema, la conciliazione, un tema molto interessante sul quale oggi il Sole 24 Ore dedica due pagine con un'intervista tra l'altro al ministro della giustizia Alfano, da cui ripartiremo dopo il traffico. In primo piano. E allora, da ieri un po' in sordina, come sottolinea il Sole 24 Ore, è partito questo strumento della conciliazione, vale a dire che per una serie di materie per avviare, prima di avviare una lite giudiziaria, si deve prima passare dal tentativo di conciliazione, un modo per cercare di mettere, insomma, di togliere animosità alla lite, superando, scrive il Sole 24 Ore, la barriera delle carte bollate per fare incontrare i litiganti. Questo scrive Saverio Fossati a pagina 10. E beh, il momento è storico perché è un'importante novità, molto osteggiata anche dagli avvocati, alcuni dei quali parlano di profili evidenti di incostituzionalità nel provvedimento. Sta di fatto che il ministro Alfano viene intervistato dal Sole 24 Ore da Giovanni Negri a pagina 11. Alfano, un filtro alle controversie. Il punto di partenza, dice il guardasigilli, è che ci sono 5 milioni e 600 mila cause a giugno 2010 ancora pendenti. L'obiettivo, e con la mediazione obbligatoria, è quello di tagliare almeno di un terzo i tempi del processo. Riguardo alle proteste degli avvocati, che parlano appunto di evidenti profili di incostituzionalità, risponde Alfano: distinguiamo, c'è un'avvocatura che contesta e un'altra che dimostra estrema attenzione. Parte degli enti di mediazione è costituita proprio dai legali. Ed è assolutamente naturale comunque che un cittadino, ricevuta l'informativa dal proprio legale della possibilità di una soluzione stragiudiziale della controversia che lo vede parte, continui ad affidarsi all'assistenza del legale anche nel percorso di mediazione. Quindi gli avvocati possono stare tranquilli, chiede Giovanni Negri, all'avvocatura garantisco anche il massimo impegno per l'approvazione del nuovo ordinamento forense, che nell'ambito dei lavori parlamentari per discutere il disegno di legge sullo smaltimento dell'arretrato, l'avvocatura reciterà un ruolo da protagonista. Insomma, questo dice Alfano, poi parla anche di digitalizzazione della giustizia, il filtro per le controversie con la mediazione obbligatoria, il taglio di un terzo ai tempi del processo. Questa è la promessa del ministro Alfano. Giusto una cosa che mi ha incuriosito: Fabio Cannavaro, campione del mondo, adesso gioca negli Emirati Arabi Uniti, così a finire la carriera, pare sia stato coinvolto nella squadra, in questo caso bisogna dire, di Lettieri, che è il candidato del centrodestra per sindaco di Napoli, candidato sindaco del centrodestra a Napoli, Gianni Lettieri, che ha annunciato: ho contattato Fabio Cannavaro e lui ha subito accettato di impegnarsi al mio fianco per il rilancio della città, mettendo a frutto la sua esperienza per aiutare i giovani a credere in loro stessi e nello sport. Che farà nel caso di vittoria di Lettieri? Non si sa. Boh, l'assessore allo sport? Chi lo sa? Cannavaro si butta in politica? Fabio Cannavaro? Chi lo sa? Stando alle dichiarazioni del candidato sindaco del centrodestra, pare proprio di sì. Per la cronaca trovate, come abbiamo sentito anche in GR24, tante notizie, tanti articoli sulla vicenda di questo tabaccaio che nel 2003 sparò per difendersi durante una rapina, sparò e uccise un rapinatore, tabaccaio assolto in appello. Questo è il titolo che leggo dal Corriere. Legittima difesa putativa, l'accusa aveva chiesto 9 anni, era già stato condannato in primo grado, l'accusa appunto aveva chiesto 9 anni per il secondo grado, ma secondo i giudici invece c'è legittima difesa. Tra l'altro Libero la mette in prima pagina, dicendo: finalmente da ieri c'è la legittima difesa, da ieri in Italia esiste la legittima difesa di Francesco Borgonovo, un tema molto discusso, giudici con la testa, assolto tabaccaio che spara. Questo è il titolo di Libero. Vabbè, c'è solo spazio per una conclusione. Il Quotidiano Nazionale, cari lettori, scrive Deborah Bonetti a pagina 20, vi presentiamo la donna più sfortunata d'Inghilterra. Si chiama Carrie Graves, a 31 anni ha deciso di lasciare il suo barboso, noioso, insopportabile fidanzato, un camionista di 37 anni, senza idee né futuro, il cui unico hobby, come ammetteva lui stesso, era dormire, visto che si svegliava alle 5 tutte le mattine. Si sveglia alle 5 e mezza, quindi un po' lo capisco. E la donna più sfortunata d'Inghilterra, dopo 15 anni con lui, l'ha lasciato. Sei noioso, sei barboso, sei insopportabile. Un giorno dopo lui ha vinto una lotteria, 20 milioni di euro. Cary Graves, è troppo tardi per ripensarci. Il giornale radio. 24 mattino. l'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, alle 8:20 minuti in questo istante voglio salutare per la nostra intervista Lamberto Dini, senatore che attualmente è presidente della Commissione Affari Esteri al Senato. Presidente Dini, buongiorno. Buongiorno. Senta, intanto parlando di Libia, sgombriamo il campo da un equivoco. Possiamo dire che l'Italia in questo momento è in guerra oppure no? L'Italia partecipa attivamente alle operazioni per installare un'efficace no-fly zone sopra la Libia. Se i nostri aerei si sono alzati in volo, sono stati adoperati principalmente per colpire installazioni radar, ma accecare praticamente i dispositivi radar di a Bengasi. Non sembra, secondo anche il Presidente del Consiglio, che abbiano ci sia stato bisogno di sparare. Però l'Italia partecipa attivamente, a seguito anche delle decisioni del Parlamento, a questa azione per stabilire un no-fly zone. Senta, il tema del giorno è il controllo di questa missione. L'Italia chiede che debba essere la NATO. Lei è d'accordo su questa posizione? Ma io credo di sì, perché effettivamente questa risoluzione delle Nazioni Unite ha lasciato a paesi singoli o insieme dei paesi di effettuare queste azioni per stabilire questa no-fly zone allo scopo di salvare vite umane. Ecco, questo è l'obiettivo principale. E per questo naturalmente siamo andati avanti. Però oggi c'è, mi pare, una spaccatura all'interno di questa coalizione stessa su che cosa fare ora, perché siamo effettivamente entrati in un periodo di incertezza dopo che gli attacchi aerei hanno distrutto o resi non operativi gli aerei e le batterie antiaeree di Gheddafi. Senta, ma lei è stupido. Ora cosa fare? Io credo che effettivamente la leadership non può essere lasciata a un singolo paese, che sia la Francia o sia l'Inghilterra. Ci vuole un coordinamento. Ma lei è stupido. E il miglior coordinamento lo può dare solo la NATO. La NATO. Lei è stupito. Le chiedo, Presidente, lei è stupito del colpo di mano, l'avrebbe definito Berlusconi, di Parigi? Cioè questa improvvisa accelerazione? Sì. Io sono rimasto molto sorpreso, prima di tutto, di dare un riconoscimento pieno agli insorti di Bengasi, come se fossero già uno Stato. Quindi solo Sarkozy si è lanciato in dichiarazioni e quindi in atteggiamenti di questo genere, e doveva dare seguito, in un certo senso, alle sue decisioni, inviando in particolare il nuovo ministro degli esteri Juppé alle Nazioni Unite, dove a seguito del reportage di Al Jazeera, dove si diceva che c'erano stati migliaia di morti, mass burial e così via, e le dichiarazioni insensate di Gheddafi, che non avrebbe senza pietà avrebbe riconquistato tutto il territorio libico senza fare prigionieri. Lei capisce che di fronte a questo il Consiglio di Sicurezza ha agito, certo, con la decisione che ha preso. Lei Gheddafi lo conosce, Presidente, l'ha conosciuto, sì, in passato, è stato, ricordiamo, Lamberto Dini, è stato Presidente del Consiglio, è stato, sì, Ministro degli Esteri. Crede che Gheddafi possa cedere? Ma guardi, fino all'ultimo veramente non cederà. L'uomo è fatto in questa maniera, però se ha cerchiato, vede, la risoluzione non parla soltanto della non-fly zone, ma anche di embargo. Quindi non esce più niente dalla Libia, petrolio o altro, non arriva nulla in Libia, anche di beni di consumo, in particolare di beni alimentari. E quindi piano piano, se continua l'azione appunto della coalizione in una maniera più coordinata, colpendo gli obiettivi militari, e naturalmente senza uccisione di civili, perché lo scopo della risoluzione è proprio di prevenire, proteggere i civili, quindi non massacrarli. Ma se continua, piano piano sarà isolato anche dagli embargo, e a quel punto è probabile che non tutti quelli che sono oggi rimasti fedeli a Gheddafi continueranno a seguirlo e a proteggerlo. Cioè lui non cederà, ma voglio dire, non c'è più una Libia di Gheddafi nel futuro, secondo lei? Guardi, al momento effettivamente se l'azione della coalizione delle Nazioni Unite, la NATO, sarà difficile che intervenga, perché le decisioni della NATO sono prese all'unanimità dei paesi, e lì c'è la Turchia e altri che probabilmente non saranno d'accordo di permettere alla NATO di essere in controllo delle operazioni. Ma se tutto si dovesse fermare dove siamo oggi, naturalmente si va verso una separazione, si andrebbe verso una separazione della Libia in due o tre parti, la Cirenaica, la Tripolitania e il Fezzan, che sono la parte sud del deserto. E ma quindi questo non è l'obiettivo, vede? No, certo. Anche se si è parlato di no-fly zone, effettivamente sia il presidente Obama, sia il primo ministro Cameron e anche Sarkozy dicono che l'obiettivo non dichiarato è di allontanare Gheddafi, certo. E quindi di cambiamento di regime. Le chiedo, presidente, questo è l'obiettivo, queste operazioni che sono in corso non possono essere fermate. Le chiedo, presidente, se il controllo non passasse sotto la NATO, secondo lei potrebbe essere una scelta legittima dell'Italia dire usciamo come siamo entrati in questo intervento militare, ne usciamo? Ma mi pare che uscirne sarebbe troppo. Io credo che il governo dovrà attenersi anche alla risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea. Ieri si sono incontrati i ministri degli esteri e quindi l'Unione Europea sta dietro l'operazione, quindi chiede con i ministri degli esteri dell'Unione Europea che Gheddafi se ne vada, che lasci il potere immediatamente. Certo. Quindi l'Unione Europea è negli obiettivi dietro effettivamente questa chiedazione. Noi non possiamo accettare che sia un singolo paese a decidere quale deve essere l'azione di tutta la coalizione che si è formata. Un'ultima domanda, presidente, è questa: dal suo punto di vista personale, perché anche all'interno della maggioranza ci sono molti che hanno mostrato scetticismo per questo intervento, lei personalmente, secondo lei, è stato un errore questo intervento militare, questa accelerazione, oppure era inevitabile? Io credo che la richiesta di stabilire una no-fly zone sulla Libia era stata proposta molto tempo prima che fosse la risoluzione fosse adottata. Sarebbe stato necessario, perché nel momento in cui Gheddafi era in condizioni di riguadagnare il controllo della più parte del territorio, e così facendo uccidendo civili e popolazioni, è chiaro che si rendeva necessario un intervento, anche per responsabilità di proteggere, questa è la nozione anche delle Nazioni Unite, questo si doveva, credo che si dovesse fare. Va bene. Io credo che lo scenario peggiore sia quello di uno status quo, cioè dire che la Cirenaica è protetta ora anche dalle forze, dalla coalizione della NATO, coalizione che si è formata sotto la risoluzione. La Tripolitania, mentre no. Gheddafi continua ad avere il controllo della Cirenaica. Sì, certo. E questa situazione di stallo è effettivamente la peggiore. Io la ringrazio, presidente Dini, per essere stato con noi. Grazie. Buona giornata. Lamberto Dini, presidente della Commissione Affari Esteri del Senato, ma è stato anche presidente del Consiglio, ministro degli Esteri, è uno che Gheddafi l'ha anche incontrato e conosciuto. Allora, noi ci fermiamo nel nostro sondaggio di oggi. Dopo la pubblicità parliamo di fecondazione assistita, perché negli ultimi anni circa, il dato adesso lo recupero, 31.000 bambini negli ultimi 5 anni, 31.000 bambini sono nati grazie alla fecondazione assistita. Ieri una dichiarazione, l'altro ieri, insomma, una dichiarazione di Monsignor Girotti, che non è una grande novità per il Vaticano, ma insomma è stata ribadita in maniera decisa, ha fatto un po' sobbalzare, perché il concepimento deve avvenire in modo naturale tra i due coniugi, la fecondazione assistita, soprattutto alcune tecniche, sono per il Vaticano peccato. peccato. Ora voi dite, e molti ci scrivono, ma chi se ne frega, chi crede nella Chiesa, chi è cattolico, segue questa dottrina, si riconoscerà in questo, e altri no. Però noi vogliamo fare un sondaggio su questo. Che ne pensate nel fatto che la Chiesa consideri peccato la fecondazione assistita? Ne parliamo tra poco, votate su radio24.it oppure 800 24 0024. 24 mattino. E allora nel nostro sondaggio di oggi parliamo di fecondazione assistita. Ebbene sì, perché ieri ci ha molto colpito la posizione del Vaticano, sulla quale vogliamo discutere nel nostro sondaggio. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in vita. Bianco o nero? Ha colpito quando ieri abbiamo letto sui giornali la fecondazione assistita diventa peccato. Beh, tanto forse c'è un errore per il Vaticano, la posizione ufficiale, già in documenti precedenti un paio d'anni fa. La fecondazione assistita, alcune tecniche di fecondazione assistita sono considerate peccato, perché il concepimento deve avvenire in modo naturale tra i due coniugi. Certo, abbiamo raccolto anche lo stupore, per esempio ieri, dai giornali di un genetista cattolico, Bruno Dalla Piccola, che dice: ma no, sono stupito, viene praticata, e queste tecniche ci sono anche in ospedali cattolici. C'è lo stupore di chi si stupisce, da oggi sul Foglio di Giuliano Ferrara, stupisce lo stupore di chi scopre solo ora che la Chiesa cattolica condanna moralmente tutte le pratiche di fecondazione in vitro. E c'è chi si stupisce perché facciamo un sondaggio del genere, dicendo: ma insomma, chi è cattolico segue la dottrina della Chiesa, chi non lo è non la segue. Però io vorrei anche capire se è vero che in quei cinque anni, negli ultimi cinque anni, 31.000 bambini sono nati da tecniche di fecondazione assistita, anche immagino da genitori cattolici, se questi siano, la butto così, frutto del peccato. Ne vogliamo discutere con l'onorevole Paola Binetti, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei. È dell'UDC. E il senatore Ignazio Marino del Partito Democratico, buongiorno senatore. Buongiorno e grazie per l'invito. Allora, siete due politici, ma siete anche due medici, siete due cattolici. Onorevole Binetti, intanto voglio partire da lei come provocazione. Sono frutto del peccato questi 31.000 bambini nati negli ultimi 5 anni? Allora, i bambini sono del tutto innocenti e dal momento stesso in cui vengono concepiti acquistano non solo tutti i diritti a vivere, ma tutti i diritti a essere trattati come persona e ad avere davanti a sé un futuro, come dire, luminoso, di persone che si spenderanno la loro vita sulla base di quelli che saranno poi i loro comportamenti concreti. Ma non c'è dubbio che sulla fecondazione medicalmente assistita la Chiesa ha sempre avuto le sue riserve, e le ha avute proprio perché è dottrina, diciamo, della Chiesa da sempre. Non solo, diciamo, la discussione sulla legge 40 è servita a mettere a fuoco alcuni aspetti concreti, no? Sì. Però da sempre la dottrina della Chiesa è stata che il momento, diciamo, dell'appropriazione e il momento del rapporto tra i due coniugi deve essere lo stesso, no? Proprio per assicurare alla vita quella che noi oggi potremmo anche chiamare una sorta di ecologia umana, che è rispettosa della dignità dei coniugi, della dignità del bambino, e peraltro evita alcune conseguenze che sappiamo essere poi difficilissime da risolvere. Sì. Penso agli embrioni congelati, ma penso anche agli uteri in affitto, penso anche a quelle situazioni, a mio avviso, assolutamente discutibili, come quelle dei bambini con due madri senza padre o con due padri senza madri, eccetera eccetera. Queste, cioè, alcune tecniche, infatti Monsignor Girotti, che ha ribadito la posizione della Chiesa, ha parlato proprio di alcune tecniche che prevedono il congelamento degli embrioni, che sono persone, l'embrione è una persona, onorevole Binetti, guardi, per la lei. Conferma che sono persone, lei l'ha da tanti punti di vista, però c'è stato un caso recentissimo in Spagna in cui a Barcellona a un certo punto una madre ha deciso di farsi impiantare un embrione che era in qualche modo fratello gemello di un bambino che lei stessa aveva avuto 11 anni prima. Cioè, noi abbiamo esperienza che questi embrioni congelati, una volta impiantati, hanno dato in molti casi origine a una vita umana, e quindi di conseguenza questa è la conferma, al di là di ogni ragionevole dubbio, che siano persone. Durante gli anni di congelamento queste persone posseggono tutta la potenzialità di espressione che è propria della vita umana. Allora, io l'84% devo dire dei nostri ascoltatori nel nostro sondaggio non è che ci permettiamo di stabilire quello che è dottrina della Chiesa. Noi chiediamo nella domanda: siete d'accordo sul fatto che la Chiesa consideri peccato la fecondazione assistita? L'84% devo dire dice di no, quindi un'ampia maggioranza. Senatore Marino, lei che ne pensa? Non è una posizione nuova da parte della Chiesa, lei che è un politico, un medico, è cattolico. Certo, sono domande che si moltiplicano, soprattutto perché la scienza oggi ci mette a disposizione delle tecniche che non esistevano nel passato, e credo che sia difficile dire di no a una famiglia, a una mamma che ha un desiderio di maternità e che può realizzare questo sogno di avere un bimbo o una bimba attraverso la fecondazione assistita. Credo che su questo, e davvero lo dico con molto rispetto, anche la Chiesa dovrebbe fare una riflessione più profonda di quella che è stata fatta sino ad oggi, perché ad esempio la Chiesa dice che il concepimento non deve essere disgiunto dal rapporto coniugale, e ad esempio all'Università Cattolica viene utilizzata una tecnica di inseminazione artificiale non disgiunta dal rapporto coniugale. A me mi sembra un intervento piuttosto acrobatico, perché quello che si chiede di fare per assistere queste coppie è quello di avere un rapporto sessuale con un condom, un preservativo particolare che consente la conservazione del liquido seminale, che poi viene inoculato artificialmente nella tuba della donna al momento dell'ovulazione. Mi sembra davvero un inseguire con tecniche un po' costruite per rispettare una visione della vita e della società che forse potrebbero essere invece un po' riviste, discusse in maniera più aperta. A me, quando lei ha fatto questa domanda, mi è venuto in mente la storia di un bambino americano in una città dove ho vissuto tanti anni, a Filadelfia. Il papà è molto noto, perché è uno dei più famosi giocatori di football americano, e hanno avuto, questa coppia molto cattolica, ha avuto un bambino affetto da una malattia terribile, si chiama malattia di Krabbe, è una malattia che condanna il bambino a una vita breve, piena di sofferenze, non si cresce, non ci si esprime, non si riesce ad alimentari per la degenerazione dei tessuti nervosi e muscolari. Questo bambino, nonostante tutte le cure straordinarie a cui è stato sottoposto, è morto a 6 anni, passati quasi sempre in ospedale. Questa coppia cattolica, è stato un caso molto discusso sui media proprio per la fama del padre, ha deciso di utilizzare la fecondazione artificiale e la selezione di un embrione, e attraverso questo hanno avuto una bambina sanissima. Sana. Nel caso di una gravidanza naturale, questa coppia, i Kelly, appunto perché cattolici convinti, avevano detto che non avrebbero mai fatto ricorso all'aborto se si fossero resi conto che il feto era colpito di nuovo dalla terribile malattia. Ma il tema è molto interessante, infatti io come al solito su questo temi ci sono tantissimi ascoltatori e ascoltatrici che ci chiamano all'800240024. Vorrei sentire che ne pensa Sara da Prato. Buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori. Io volevo raccontare la mia esperienza di donna alla quale era stato sentenziato il fatto di non poter avere figli a causa di un FSH molto alto. E, insomma, i tecnici possono capire che cosa questo significa. Sì, sì. E quindi mi sono sottoposta a varie cure ormonali e tutto, poi alla fine l'unica soluzione che mi è stata offerta è stata appunto quella della fecondazione assistita, oltretutto di tipo eterologo. Che lei ha fatto? Eterologa, quindi è andata all'estero. Sì. Andata all'estero. Sono stata in Repubblica Ceca e ora sto portando appunto il frutto del peccato all'asilo, perché appunto è andato tutto bene, ho avuto una bellissima bambina che adesso ha 10 mesi e Tra l'altro abbiamo fatto anche l'esame preimpianto, il che mi ha consentito di evitare poi esami diciamo successivi. È interessante questa sua posizione, la ringrazio Sara, porti pure il frutto del peccato all'asilo. Lo so, è una provocazione, però questo frutto del peccato da portare all'asilo, e da qui voglio ripartire, dopo le informazioni sul traffico chiedo proprio all'onorevole Binetti una risposta, proprio sì o no, cioè è frutto del peccato questa bimba, bimbo, non gliel'ho chiesta, Sara da Prato, che ha fatto la fecondazione, anche eterologa, quindi vietata in Italia, è dovuta andare in Repubblica Ceca. Tra poco. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, ci stiamo interrogando su questo. Il Vaticano, che definisce peccato la fecondazione assistita perché il concepimento deve avvenire in modo naturale tra i due coniugi. Onorevole Binetti, ha sentito il caso insomma di Sara da Prato, che ci ha raccontato del suo frutto del peccato, no? Concepito. A me sembra che insistere sul fatto di attribuire ai bambini l'etichetta di frutto del peccato è una manipolazione del linguaggio che non permette alle persone di capire esattamente di che cosa stiamo parlando. Perché è una manipolazione? Un bambino è come no, tale, ma questo sì. Nemmeno per, guarda, ma questo sì. Lo dico perché rispetto molto alla sua trasmissione, che peraltro ascolto quasi regolarmente perché mi coincide col momento in cui vado in ufficio, quindi rispetto questo. Però questa etichetta mi sembra che banalizza oltretutto il senso del peccato. Allora, e non dà ragione di quelle che sono le realtà. Qui il principio che si afferma è un principio molto semplice, che una volta che il concepimento avviene in modo diverso, mettiamola in questo modo, sì, forse si riesce a spiegarci meglio con le persone che ci ascoltano. Una volta che il concepimento avviene in modo diverso da quello che è, potremmo chiamare, il ritmo naturale, questa ecologia della nascita, cioè i due coniugi subentrano tutta una serie di altri problemi, che non sono pochi. Non sono pochi, perché lei ha visto che nella testimonianza della signora che ci ha ascoltato, e io sono ben contenta che il bambino stia andando all'asilo, però vede, c'è stata una secondazione eterologa, cioè, tutta una serie di cose che sono problemi quando si è voluta la legge. Ma perché lei dice per difendere la vita e la famiglia? Ma perché lei definisce un problema, onorevole? Cioè, la signora aveva un problema invece, per il quale non poteva avere un concepimento naturale, e ha ovviato a questo problema con una soluzione. Sa che in Italia la fecondazione eterologa è vietata, non è certo consentita, infatti, ma non è consentita non per una sorta di, come dire, di accanimento che vuole impedire ai genitori di avere figli, ma perché nella fecondazione eterologa quello che c'è è che il padre è un padre terzo, quello che è la vita della il seme non è, del coniuge o del compagno, certo. E questo in qualche modo è un cuneo che si inserisce anche nella vita di famiglia, nella vita di un rapporto tra i coniugi, eccetera. Sono tutta una serie di, lo stesso esempio che faceva prima il senatore Marino, no? Cioè della, chiamiamola così, selezione a monte, no? dei bambini. È vero che questa coppia di cui lui ha parlato era una coppia che si era dichiarata espressamente contraria all'aborto, e quindi facendo un'affermazione di valore della vita e della dignità della vita, però nello stesso tempo la selezione degli embrioni è qualcosa che la stessa legge non consente in Italia, ma non consente perché parte da un presupposto importante, che quell'embrione è una vita umana, per cui nel momento in cui io, per così dire, lo scarto e mi assumo il diritto di dire tu nasci sì, tu nasci no, io assumo una responsabilità nei confronti della vita di altri che, se rispetto i tempi naturali e i modi naturali della nascita, se vuole mi riconsegna una mia umiltà, però mi riconsegna anche un mio rispetto più profondo, ma questa del diritto a vivere di tutti. È certo, la sua posizione è molto chiara. Io voglio sentire Luca da Aosta. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Sì, non sono riuscito a sentire bene l'intervento della... Vabbè, dica il suo, intervento. Ma il punto è, qui è molto chiaro. Secondo me, per come la vedo io, i cattolici possono, anzi devono avere le loro posizioni, ma l'Italia non è uno Stato confessionale, quindi le leggi dello Stato non devono tenerne conto. E quindi il fatto che ci sia, se si vieti l'eterologa... è assolutamente fuori luogo. Questa però è un'altra questione, cioè siamo virati sull'eterologa. Luca, lei dice l'eteroga ci vorrebbe, è una legge dello Stato, cioè lei dice è una legge che ci ha imposto il Vaticano. Ma non solo, la legge 40 del 2004, quella legge lì, secondo lei dice ce l'ha imposta il Vaticano? scusi. No, ma le chiedo, Luca, è una legge dello Stato italiano? È stata votata dal Parlamento italiano? Oppure le dice c'è stata imposta dal Vaticano? No, è stata votata dal Parlamento italiano, ma il punto è che fa rientrare dei principi che sono squisitamente confessionali e li applica a tutti. Ora, io non sono cattolico e quindi mi ritrovo a dover sottostare a delle norme che sono dettate da quel tipo di addirittura visione dettate. Del mondo. Va bene, grazie Luca. Senatore Marino, la posizione di Sara, della nostra ascoltatrice, la posizione della Binetti, non so, vuole anche lei sulla fecondazione eterologa dire qualcosa? Secondo lei il divieto italiano è sbagliato? Secondo me va definito frutto dell'amore, insomma, non frutto del peccato. Si tratta evidentemente di una mamma che ama il suo bambino, la sua bambina, e che desiderava moltissimo avere una maternità. Non vedo come si possa condannare questo desiderio di amore. No, ma condannare no, questo neanche l'onorevole Binetti lo fa, però dice ci sono tutta una serie di problematiche che si innestano, per esempio sull'eterologa, appunto l'eventuale presenza di una persona terza che poi un domani potrebbe anche in qualche modo cioè si insinua nella coppia, insomma, il nostro ultimo ascoltatore, mi pare si chiamasse Luca, ha centrato il problema in maniera molto chiara. Il Parlamento, in un paese come il nostro, con una costituzione laica, dovrebbe scrivere leggi che non hanno contenuto etico, ma hanno un contenuto giuridico. Poi ognuno di noi, sulla base delle proprie convinzioni, della propria cultura, della propria fede, trova il proprio percorso. Se ognuno di noi, uno di noi, pensa di non avvalersi di una tecnica che esiste come la fecondazione assistita, l'eterologa o altre tecniche, o anche semplicemente di altre tecniche che la sanità e la scienza oggi mettono a disposizione, può decidere di non avvalersene, ma proibirle a tutti in uno stato laico è sicuramente un errore. Questo va detto con molta chiarezza. E poi va anche detto che nello scrivere la legge che regolamenta la fecondazione assistita nel nostro paese è stato davvero fatto un pasticcio, perché non si sono ascoltati i medici, non si è ascoltata la scienza. E che cosa è accaduto? Che negli anni successivi è intervenuta più di una volta la magistratura, e oggi mi dispiace dover smentire l'onorevole Binetti, ma alla cosiddetta diagnosi pre-impianto, cioè poter rendersi conto se un embrione è ammalato oppure no, oggi proprio per l'intervento della magistratura è possibile anche nel nostro paese. Sì, certo, allora io chiedo, non sarebbe meglio scrivere le leggi tenendo conto della conoscenza di quel momento e del fatto che il nostro è un paese uno stato laico? Sì, si fanno le leggi e poi ci sono vari ricorsi alla magistratura. Onorevole Binetti, abbiamo 20 secondi, secondo lei questo aspetto, cioè l'aspetto che i politici cattolici che ci sono, come lei, che portano anche la loro fede in Parlamento, posso dire, dovrebbero starne fuori, cioè separare le due sfere oppure... Allora, guardi, molto semplicemente, nei pochi secondi che ci sono, le dico questo. Di fatto in Italia la fecondazione medicalmente assistita è possibile, a dimostrazione che siamo in un paese laico in cui la dimensione, per così dire, del reato e la dimensione del peccato sono totalmente con diverse. Molti paletti per qualcuno. Poi sarebbe inaudito che un parlamentare che in qualche modo porta con sé, entrando in Parlamento, le sue convinzioni, i suoi valori e quello che rappresenta la sua stessa cultura, che molte volte è parte della sua scelta di fare il parlamentare, lasciasse questi valori e queste convinzioni fuori dalla porta. Per questo c'è il principio democratico, che non è nessuna garanzia di verità, però una garanzia di democraticità, che è quello del voto. La legge 40 è stata votata dal Parlamento ed è stata votata dal Parlamento in cui c'erano presenti parlamentari di ispirazione cattolica, parlamentari laici, parlamentari con convinzioni diverse. E la stessa cosa accadrà nelle prossime settimane con la legge sulla dichiarazione anticipata di trattamento. La democraticità è garanzia in qualche qualche modo anche lei di laicità. Di quel tema poi parleremo più avanti, un altro tema molto interessante. Grazie all'onorevole Paola Binetti dell'UDC e al senatore Ignazio Marino del Partito Democratico. Ci fermiamo con Alessandro Longoni ed Elisabetta Fusconi in redazione e l'alpino Peter Bescapè in regia con la sua penna nera. La linea va come al solito a Oscar Giannino. Noi ci troviamo domattina alle 7:20. Seguiteci su Facebook 24 Mattino e scriveteci 24 Mattino @radio24.it.